Nero Grigori. Nero Grigori, che tu vuoi torero nero che tu. Di voca di gobi, o te che tocca di bri. Get all head on.